con Cristiana Mainardi, direttrice di Fuori Cinema, Fuori Serie a Milano dal 20 al 23 giugno 2019. Cristiana, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lo descriviamo dagli inizi, come è nato questo oggetto? Ma diciamo che la voglia era quella di portare un po' di cinema a Milano, non perché non ci fosse, ma soprattutto in relazione all'idea di un evento che fosse un'occasione di incontro tra un pubblico molto sensibile, molto vorace, straordinario secondo me, e gli artisti che magari invece insomma solitamente gravitano per altri lidi. E l'idea era proprio quella di fare un festival che fosse sganciato dai fini promozionali, no? Quindi creare un'occasione di approfondimento, di dialogo da vivere in assoluta libertà, quindi anche fuori dai contesti classici, magari delle sale, insomma, soprattutto. E da qui con Cristiana Capotondi abbiamo iniziato a immaginare un evento che anzitutto avremmo voluto vivere da spettatrici, quindi Fuori Cinema nasce quasi per un bisogno personale di stare insieme ad altri, di condividere un'esperienza meravigliosa che è quella di un grande sogno collettivo come poi il cinema è. Come saranno articolate queste 4 giornate? Ma intanto diciamo che quest'anno è un'edizione veramente straordinaria perché siamo sempre cresciuti fortunatamente nel corso degli anni, insomma l'anno scorso abbiamo fatto 30.000 presenze, davvero una cosa impressionante dal nostro punto di vista, ma abbiamo capito che stare dentro in 2 giorni e mezzo già iniziava ad essere un pochino difficoltoso e quest'anno abbiamo voluto consacrare, ufficializzare quello che in realtà per noi è sempre stato un tema trasversale a Fuori Cinema, quindi quello della serialità TV, perché in fondo noi abbiamo approcciato il tema dell'audiovisivo, ma anche della musica, anche della letteratura, no? Di tutte quelle arti collegate appunto al fare cinema, e quest'anno abbiamo pensato di ufficializzare questo matrimonio facendo Fuori Cinema, Fuori Serie, anche grazie alla collaborazione con Better Now. E queste 4 giornate riprendono lo schema originario di Fuori Cinema, che è quello di una grande maratona di eventi, di incontri, di talk, perché appunto è un festival anzitutto di persone, quindi abbiamo più di 100 ospiti. Apriremo giovedì 20 alle ore 16:30 e chiuderemo domenica notte con un mix tra talk e proiezioni, tra film e serie TV rigorosamente in anteprima, a parte qualche piccolissima eccezione, ma importante. I luoghi? Diciamo che torniamo un po' a casa nostra, dal mio palazzo del cinema. Chiuderemo, renderemo pedonale per 4 giorni via Milazzo, che sarà il luogo del nostro red carpet, e nel chiostro dell'Incoronata allestiremo una grande arena che ospiterà 1 migliaio di persone tra palco, l'arena è un'area food, perché il concetto di Fuori Cinema è proprio quello di un luogo da vivere in assoluta libertà, dove si può arrivare la mattina e si può stare fino a sera, si può pranzare, si può chiacchierare, si può ascoltare musica, da vivere appunto in assoluta libertà, e inoltre proprio per la ricchissima proposta anche di proiezioni, in alcune giornate come il sabato e la domenica, già la mattina utilizzeremo anche delle sale di Anteo Palazzo del Cinema per proporre film e puntate di serie TV. Bene. E i riferimenti web per saperne di più sul programma? Tutto il programma su www.spaziocinema.com e su www.fuoricinema.com. È prevista anche la presenza di ospiti? Gli ospiti sono più di 100, quindi gli incontri sono, beh, non li ho contati, ma penso una sessantina, insomma, direi, è il cuore di Fuori Cinema. Quindi apriremo giovedì alle 17 con una conversazione con il sindaco di Milano, Beppe Sala, perché il tema di quest'anno è l'amore, e questa conversazione si chiamerà per titolo Cuore Aperto, perché intendiamo chiaramente Fuori Cinema come anche un piccolo contributo contributo culturale e sociale per affrontare un po' questo momento storico particolare. E il giovedì, insomma, già credo che avremo almeno una trentina di ospiti tra cantanti, attori, registi, scrittori e via via, insomma, ogni giornata è veramente ricchissima da questo punto di vista. Sono tutti a maratona, ad ingresso gratuito ovviamente, per cui crediamo che possano soddisfare un po' tutti i gusti. Quarta edizione di Fuori Cinema, Fuori Serie a Milano dal 20 al 23 giugno 2019. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Cristiana Mainardi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, vi aspettiamo, grazie.